mio paese. E cosa pensa dei giovani? Benissimo, più il bene possibile. E i giovani cosa pensano dei degli adulti, secondo lei? Ma no, bene, dai, penso. Tutto bene, dai, tutto a posto.